domande, con un discreto carico di preoccupazioni e non senza dubbi su come funzionerà il tutto, apriamo la cosiddetta fase 2, che poi assomiglia molto alla fase 1, con qualche libertà in più e con oltre 4 milioni di persone che tornano al lavoro. Centriamo con un calo degli attualmente positivi di circa 500 unità, con un aumento delle vittime che è il più basso da molti giorni, con un ulteriore calo dei ricoveri in terapia intensiva. Il tutto mentre si attende il cosiddetto decreto aprile, che in realtà verrà approvato in maggio e che contiene le prossime mosse economiche dell'esecutivo, tra queste il reddito di emergenza, i soldi a fondo perduto alle aziende, mentre gli industriali tornano a chiedere lo sblocco delle opere pubbliche già finanziate e il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. E poi gli scontri, certo, tra regioni e governo, con la Calabria che presto vedrà la sua ordinanza che apre bar e ristoranti con tavolini all'aperto, impugnata dallo Stato. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Le nostre ghost town, le nostre città fantasma, che presto potrebbero non essere più così, a quanto pare, con questa fase 2. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Sono le 6, 29 minuti e 47 secondi di lunedì 4 maggio. Al microfono c'è sempre Simone Spezia e la nostra task force di stamattina sono Carmelo Lauricella in regia, Lorenzo Nespoli e Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E poi tutti gli altri, come sempre, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Iniziamo. Sapendo che la nostra task force siete soprattutto voi. 349-238-6666 per gli WhatsApp audio. Fatemi sentire la vostra voce, dai, ditemi che cosa fate, se tornate al lavoro oggi e come ci tornate. Anche fisicamente come ci tornate, cioè mezzi pubblici, macchina, perché poi questo sarà uno dei grandi problemi, Oppure se non avete mai smesso di lavorare. Oh, c'è molto altro rispetto all'introduzione che ho fatto, naturalmente. C'è tutta la questione della scuola, Là c'è una grande discussione perché la ministra Azzolina ha detto si potrebbe rientrare alternati, ossia in una classe entra, metà fa lezione in classe, in aula, l'altra metà fa lezione da casa. E qua suscitando tutta una serie di perplessità, no? Perché la gente dice, innanzitutto dice, vabbè, ma io non è che posso andare un giorno al lavoro, un giorno ci vado e un giorno non ci vado, se ricomincio a lavorare. E anche dei docenti, anche quelli che un po' più lavorano sulla scuola a distanza, che dicono, guardate, la lezione in presenza e la lezione a distanza non è che sono la stessa cosa, quindi io devo tarare sulla base di che tipo di lezione devo fare. Non è così semplice, non sarà facile questa ripresa della scuola. Sì, poi c'è tutto il polemicone Di Matteo Bonafede con Di Matteo che dice il magistrato, me lo scrive un ascoltatore adesso per gli amanti del genere. Il PM Di Matteo dice mi ha convocato Bonafede, mi ha offerto la guida del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma poi fa intuire che quasi Bonafede, sotto la pressione dei boss, che avrebbe rinunciato, no? Bonafede replica, ma che stai dicendo? Ti ho offerto il posto, te ne ho offerti due, anche un altro diverso, anche la direzione degli affari penali, e hai rifiutato, sei tu che non hai voluto. Ma figuriamoci se mi piego ai mafiosi. Bah. Di tutto abbiamo bisogno meno di questo, come di tutto abbiamo bisogno meno che dello scontro tra le regioni e lo Stato, Però vabbè, andiamo con ordine e andiamo con il ministro della Salute Speranza sul monitoraggio giorno per giorno. Noi monitoreremo con la massima attenzione, ora per ora, giorno per giorno, in collaborazione con le regioni che chiaramente poi hanno la gestione della nostra rete sanitaria. Per esempio, non sarà indifferente immaginare quale sarà il tasso di saturazione delle nostre terapie intensive. Così dunque il ministro Speranza, che dice, insomma, non possiamo inseguire il consenso. Sentiamolo, va. Giovedì sera ho firmato un decreto molto importante, anche questo costruito chiaramente con la nostra comunità scientifica, che ci consentirà, dopo un'intesa anche con le regioni che hanno potuto condividere questo decreto, di valutare l'evoluzione dell'epidemia in ogni singolo territorio sulla base di 3 macro aree di valutazione e 21 criteri specifici, con delle soglie allarme che ci diranno in ogni singolo territorio esattamente quello che sta avvenendo. Io credo che con questo metodo dovremo leggere le prossime settimane. La situazione è sicuramente migliore rispetto al passato, ma ancora non siamo fuori dall'epidemia e quindi c'è bisogno della massima prudenza, della massima precauzione. E quando firmiamo atti, ordinanze, DPCM, come fa il Presidente del Consiglio, non possiamo guardare all'umore del momento, non possiamo inseguire il consenso, abbiamo bisogno anche, ahimè, di fare scelte che non sono facili e che probabilmente non ci porteranno consenso, però la prudenza è fondamentale. La prudenza è fondamentale, con molti che si chiedono fino a dove bisogna spingere questa prudenza. E questa prudenza è giustificata dalla capacità di, all'opposto di ciascuno di noi, è di esercitare la propria responsabilità. Insomma, come dice il vecchio detto, la prudenza non è mai troppa, però è vero, magari, che noi siamo già prudenti, siamo già bravi ad essere prudenti noi. La questione delle regioni è: dopo il 18 si potrà fare qualche differenza, dice il ministro degli affari regionali Boccia. Quando dopo il 18 o nella settimana successiva ci saranno le differenze territoriali, ogni regione ovviamente potrà fare altre cose in funzione della sicurezza che ha costruito. Ah, sembrava un'interferenza aliena, ma era effettivamente il ministro degli affari regionali che, in un file audio un po' rovinato, diceva appunto che dal 18 si potrà partire con le differenze. Uno dei problemi che si stanno affrontando, una delle cose sulle quali ci si sta scontrando, è la Regione Calabria. Regione Calabria che ha deciso di tenere aperti bar e ristoranti pur con appunto i soli tavolini all'aperto. L'ordinanza verrà impugnata, andremo tra un attimo a sentire queste voci, ma intanto c'è la questione delle mascherine, eh? E proprio qua andiamo da una parte all'altra d'Italia, perché vi faccio sentire Zaia da una parte e Santelli dall'altra, la presidente calabrese. Stiamo parlando di un virus che non colpisce la persona e quindi non rientra nelle scelte individuali prendersi il virus oppure no, ma purtroppo colpisce la collettività. È un virus che ha un'alta contagiosità e quindi nessuno di noi si può permettere di dire ma io esco senza mascherina perché tanto la vita è mia. No, la vita no, è tua, è la tua, ma quella degli altri non è tua. Io non ho messo l'obbligo, no, semplicemente perché penso che se metto l'obbligo devo poi essere in grado di dare gratuitamente le mascherine. E dice Santelli, non ci riesco. Oh. Poi, natura, guardate, vi risparmio per il momento, poi magari ci sentiamo un passaggio del presidente Campano De Luca sul concetto leopardiano di congiunti, però vi risparmio tutta la questione congiunti, non congiunti, sono gli amici, non sono gli amici, perché stiamo diventando pazzi su questa vicenda. La verità è questa, come abbiamo raccontato l'altro giorno, la polizia, le forze dell'ordine, i carabinieri, la municipale non saranno in grado di verificare chi stai andando a trovare. E non è nemmeno giusto che lo facciano, tutto sommato, perché non è che ti possono fermare e dice vai a trovare il cugino di tuo padre o stai andando a trovare il tuo migliore amico. Sarà ben difficile che questo avvenga. Ora non voglio stimolare alla ribellione contro un provvedimento governativo, però è chiaro, ragazzi, no? Che insomma sta al buon senso di tutti. Comportiamoci con buon senso, poi possiamo discutere all'infinito sulla tendenza italiana a ipernormare tutto quanto per prevedere ogni singolo caso, ogni singolo elemento. Non è possibile, non si può fare. Oggi iniziamo in modo particolare, andiamo prima da chi riparte e poi da chi non riparte. E quindi iniziamo da una grande azienda del settore dell'arredamento, del settore legno arredo per così dire. Gianluca Pallotta, responsabile sistemi di gestione qualità e sicurezza sul lavoro della LUBE. Buongiorno Pallotta, benvenuto, eccoci. Buongiorno. Allora, buongiorno. Allora, ci dica un po' come il primo turno è già iniziato? Deve sì, è iniziato alle 6, sì. La prima volta che proviamo a fare questi turni per vedere di diminuire il personale presente in azienda. L'azienda ha più di 500 persone, per cui capisce che il distanziamento sociale è una difficoltà oggettiva. Eh beh, certo, naturalmente. Anche perché a questa cosa, insomma, nessuno di noi era abituato. Quindi innanzitutto avete diviso su due turni, e prima i turni non li facevate. E questo è il primo elemento, no? E poi naturalmente, come si leggono anche dai giornali, così abbiamo installato i termoscanner, per cui io sto controllando che tutti si misurino la temperatura. È il primo giorno, per cui anche un minimo di trovare la giusta misura, ma mi sembra che finora è andato tutto bene, via. Tranquillamente. Poi distanziamento. Vedo che c'è voglia prego. Di iniziare, c'è voglia di iniziare, nonostante un po' di timore, però ho visto sospiri di sollievo. Finalmente siamo rientrati al lavoro. Noi un mese e mezzo che siamo fermi, dal 16 di marzo, abbiamo chiuso anche prima di quando il governo ce l'ha imposto. Il 16 marzo avete chiuso, quindi un mese e mezzo. Ascolti, distanziamento sociale, come si fa in azienda, in un'azienda come la vostra? Come è organizzata la cosa? Allora, l'azienda, fortunatamente nel nostro settore, gli spazi sono molto ampi, pertanto è molto semplice, tra virgolette, mantenere la distanza nei magazzini piuttosto che nelle macchine automatiche. Un po' più complicato è mantenerlo sulla classica manovia, quindi catena di montaggio, sulla linea di produzione. Sulla linea di produzione, sì. Per questo abbiamo diviso i turni, facendo lavorare una linea a metà turno e l'altra metà turno, quindi a regime ridotto. Ok. Fortunatamente si riesce a gestire, diciamo così. Sì, si riesce a gestire. Senta, i dispositivi di protezione, no? Chiaramente li dovrete distribuire voi. Avete fatto fatica a trovarli? Ma una fatica immensa. Io un mese e più che sto lavorando per avere tutto quello che è necessario per applicare il protocollo siglato tra Stato e sigle sindacali. Dalle mascherine, la cosa più semplice, che erano bloccate in dogana, che non si trovavano. Noi 500 dipendenti, un giorno, un rapido calcolo, una scorta di 25-30 mila mascherine. Trovarle qua è stata un'impresa impossibile, però l'abbiamo trovata. Per quanto vi durano, Pallotta? Due mesi circa, insomma. Adesso faremo anche... Senta, quanto avete pagate? Noi l'abbiamo pagate poco più, ecco, trovarle anche al giusto prezzo. Tra l'altro, prendere le mascherine, una prima fornitura erano prezzi fuori dalla norma, considerate che noi abbiamo sempre acquistato le mascherine. Pallotta, stava per dire fuori dalla grazia di Dio, a quanto ve l'hanno offerte? Ma andavano dai 6 euro, cose che pagavamo 1,10 euro. Perché noi abbiamo sempre acquistate le mascherine, nel nostro lavoro servono le mascherine, no? Nell'ambito della carteggiatura, eccetera. Quello che costava prima 1,10 euro è arrivato a costare 6 euro, 7 euro più l'una, a noi all'ingrosso. All'ingrosso. All'ingrosso. E alla fine siete riusciti a trovarla ad un prezzo decente, immagino. Sì, insomma, sì, intorno ai 65 centesimi. Ecco. Senta, avete mensa? Come avete una mensa? Come la mensa per adesso? La mensa per adesso è chiusa. Mm. Questi prossimi giorni saranno proprio dedicati a vedere come riorganizzare e fare e rendere possibile sfruttare la mensa, anche compatibilmente con i due turni, perché facendo due turni la mensa perde un po' il suo significato. Il turno finisce alle 13, quindi la gente va a casa. Certo, giustamente, la gente va a casa a mangiare e gli altri arrivano già mangiati. Quelli del secondo poi, turno. Considerate che, come dicevo prima, c'è voglia di normalità, ma noi siamo tra i pochi fortunati che la cassa integrazione in deroga c'è stata reintegrata anche per la parte, diciamo, che non era prevista, quindi abbiamo preso la paga piena tutti. Quindi nonostante tutto, quindi a casa paga piena, nonostante tutto la gente vedo che vuole venire a lavorare, vedo chiaramente. Oggi è una cosa che non mi aspettavo, onestamente. Si aspettava meno gente, insomma, si aspettava che... No, mi aspettavo meno entusiasmo. Invece... Meno entusiasmo, vabbè, invece è chiaramente la gente è anche contenta. Innanzitutto di uscire di casa, immagino, e poi di ritrovare un posto di lavoro. Sarà quello. Ma anche di ritrovare un posto di lavoro che francamente non è... non è per nulla scontato. La ringrazio e grazie Gianluca Pallotta per essere stato con noi, responsabile di sistemi di gestione, qualità e sicurezza sul lavoro della LUBE. Tra un attimo andiamo a Napoli, al caffè Gambrinus, che invece non riapre. Ma prima le città, sì, Napoli certamente, e poi Milano, Roma, che appunto devono affrontare questa fase 2 tra mille complicazioni, quelle dei trasporti pubblici, le decisioni che riguardano i parchi. Dice il sindaco Milano Sala: allora non nascondiamoci dietro un dito, il tema è la responsabilità di ciascuno di noi. Come in tanti di voi mi dicono: sindaco, fai controllare quella strada, fai controllare quel parco. Ora, noi cercheremo di fare il possibile e ieri ne ho discusso a lungo, per esempio, col prefetto in quanto rappresentante del Ministero degli Interni a Milano e quindi delle forze di polizia che si affiancano ai nostri vigili. Ma questa è una partita in cui il comportamento vale 90 e il controllo vale 10. Questa è la realtà. Chi vi dice una cosa diversa vi racconta balle. Non male. Insiste sulla responsabilità anche Virginia Raggi, la sindaca di Roma, che ha suscitato qualche polemica per queste parole, le quali dice, insomma, il governo ci ha fatto una concessione, sta a noi non sprecare. Sentiamo. Rispettiamo queste nuove regole, distanziamento, niente assembramenti, perché questo è quello che ci consentirà di mantenere i parchi aperti. Altrimenti dovremo emanare un'ordinanza con la quale li chiudiamo. Quindi diciamo che è una concessione che ci viene fatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma dobbiamo meritarcela e per meritarcela dobbiamo mantenere il rispetto di queste regole. Per meritarcela, Mattino. Arriverà l'immunità di gregge sui monti e sulle spiagge, la pecora più bella sarai tu. Dai, su, un po' più di leggerezza stamattina con Checco Zalone. Ai piccoli, ma può accenderne di grandi, come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa, il mio cuore va per le strade, scavalca muri, varca portoni, perché anche un cuore si rompe in arriverà. Allora, con Checco Zalone andiamo adesso a... Abbiamo parlato di chi ha riaperto e di chi riapre oggi. Sono 4,5 milioni i lavoratori che ritornano non ad affollare a questo punto, ma ben distanziati a popolare le città, le fabbriche, gli uffici. Ci sono luoghi che però non riaprono e non è previsto che riaprano per un lungo periodo di tempo. Parliamo di bar, parliamo di ristoranti, parliamo di estetisti, parliamo di parrucchieri, e su questo si innesta la polemica tra il governo e la Regione Calabria. Regione Calabria che decide di tenere aperti, con tavolini all'aperto, bar e ristoranti, e il governo che minaccia di impugnare l'ordinanza. Da cosa iniziamo? Iniziamo dal ministro degli affari regionali, Boccia. Mi scusi, ma la presidente Santelli, io giovedì ci siamo parlati, mi dispiace lei non abbia partecipato alla riunione di coordinamento con tutte le altre regioni. Ci siamo parlati però direttamente noi due più volte, le ho chiesto di tornare indietro, ha deciso di andare avanti, le ho inviato una lettera che è un invito a tornare indietro che si è trasformata in diffida, e ieri ho trasmesso gli atti all'Avvocatura Generale dello Stato. L'ANSA avrà battuto, ecco, la notizia, la notizia di una procedura che era già partita, quindi sì, è ufficiale che impugniamo l'ordinanza della Regione Calabria. Santelli, che però questa ordinanza la spiega così. È chiaro, si riapre, ma non è che avremo i ristoranti pieni. Avremo poca gente, c'è paura, dobbiamo cercare a poco di rimetterli in moto. O ci siamo noi a dare delle risposte, o guardi che questo territorio diventerà preda di chi le risposte è purtroppo le dà, le dà velocemente, e si chiama criminalità organizzata. Aggiunge Santelli, secondo me più pericoloso di questo c'è la fila per l'asporto, per il takeaway. Sentiamola. Io non ho riaperto ristoranti, i ristoranti li ha riaperti il governo. Cioè, ristoranti, il governo ha riaperto i ristoranti per consentire l'asporto. Io tengo molto meno pericoloso, molto più pericoloso, la fila dell'asporto, piuttosto che prevedere che quei ristoranti che hanno i tavolini all'esterno possano fare... Però... Buongiorno, Michele Sergio, che è uno dei titolari del Gran Caffè Gambrinus, un celebre bar di Napoli in Piazza del Plebiscito, forse il bar più famoso di Napoli. Sergio, buongiorno, benvenuto, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie di avermi invitato. Allora, le piace l'idea della Santelli? Le sembra una cosa praticabile? Il ragionamento regge? Oddio, sto un po' chiedendo all'oste se il vino è buono, però è chiaro che insomma, in questa situazione di difficoltà forse è qualcosa che si può pensare. Guardi, la verità è questa, è che noi siamo tutti quanti carichi e vogliamo tutti quanti tornare a lavorare, anche i camerieri, i baristi, i pasticceri non vedono paura di tornare a lavorare, quindi noi siamo pronti, e quindi la riapertura a noi ovviamente fa piacere. E però, sento un e però che è in arrivo o no? Però chiaramente bisogna da un lato contemperare la problematica della salute pubblica, dall'altro lato ovviamente i problemi imprenditoriali. Quindi quando noi non abbiamo la possibilità di valutare, noi aspettiamo, e quando sarà possibile saremo i primi, diciamo, a essere operativi. Oggi però non abbiamo aperto, siamo rimasti chiusi. Sì, non potete farlo del resto, insomma, eccetto che appunto per l'eventuale takeaway. Avete deciso di non farlo, Sergio, l'asporto voi? No, perché il Gambrinus si basa sul banco. Infatti i clienti vengono a prendersi il famoso espresso napoletano e poi sui tavoli, sia nei saloni storici che in piazza del Plebiscito. Sì. Purtroppo questo qua oggi non è ancora possibile farlo. Sì. E quindi abbiamo deciso di non aprire. Come vi state organizzando in vista, a un certo punto riaprire, non si sa esattamente quando, però a un certo punto riaprirete, come vi state organizzando? Dunque, noi pensiamo che il futuro sarà soprattutto l'e-commerce e il delivery, quindi stiamo incominciando a ragionare di come potenziare questo settore. No, che... Allora, quello sicuramente, Sergio, però a me interessa quello che succede nello spazio fisico, insomma, come state organizzando lo spazio fisico, no? Sì. Dunque, noi prima avevamo una sala, un salone storico di 100 posti, li abbiamo portati a 30. In questo modo abbiamo garantito le distanze interpersonali di un metro e abbiamo anche garantito una distanza tra gli avventori. Sì. E il banco l'abbiamo, il banco che prima diciamo era affollatissimo, adesso si possono accomodare massimo 4-5 persone. Sì. Ok. Diciamo, e quindi e poi abbiamo proprio stravolto, perché Cambrinus diciamo è stato conosciuto anche per essere un bar molto affollato, sì, soprattutto nel weekend, nei periodi diciamo più importanti dell'anno. E sembra strano, invece adesso il bar diventerà un bar più di poche persone. Certamente, dovrete fare, non lo so, una sorta di controllo agli ingressi, come funzionerà? Perché il rischio, no, che la gente si affolli là davanti quando riaprirete sarà no, forte. No, devo dire, il nostro governatore De Luca è molto preciso, ha stabilito di rilevare le temperature corporee all'ingresso, ha stabilito l'obbligo di mettere, noi siamo anche tenuti a garantire che i clienti debbono tenere le mascherine. Sì, sì, tra l'altro quindi... ce l'abbiamo De Luca sulle mascherine obbligatorie, Carmelo Lauricella, sentiamolo, va via. In Campania è obbligatorio indossare le mascherine quando si esce di casa. Noi ci siamo preoccupati di distribuire gratuitamente come regione 4,5 milioni di mascherine a tutte le famiglie della Campania. Oh, tra l'altro De Luca ieri in fase di show sugli affetti stabili, sentiamolo, va. Voglio ricordare che la mobilità fra le regioni non è consentita. Beh, per tornare poi alla propria residenza, sì. Vi è qualche aspetto delle ordinanze nazionali che io ho valutato, diciamo, leopardiano, diciamo, molto poetico. Questo ritorno agli affetti stabili, come ho letto, veramente è una cosa leopardiana. Leopardiano. No, De Luca, vabbè, insomma, se la prende il tema, i meridionali inferiori, la ricordate la polemica col direttore con Vittorio Feltri, insomma, ve la risparmio. Ci sentiamo anche De Luca su che chiama Fazio fratacchione, sentiamo. Io sono favorevole a tutti gli affetti. Sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia. No, guardi, io ho tre che domani effettivamente raggiungo, mia moglie e i miei figli che non vedo da 2 mesi, onestamente domani vado, naturalmente dicendo le orazioni lungo la strada. Siamo tutti nella stessa... Siamo tutti nella stessa situazione, ma non tutti sono come lei, ci saranno molti che andranno a raggiungere affetti. Gli affetti stabili. I vostri clienti, Michele Sergio, sono affetti stabili, no? Certo, i clienti sono l'affetto più importante. Va bene, quando contate di riaprire? Quindi il 2 giugno, in sostanza. Dunque, se vediamo il Presidente Conte cosa stabilisce, o il 18 maggio o il 1 giugno. Quindi siamo in attesa, abbiamo voglia di metterci un'altra volta a servizio dei turisti e dei clienti. Dai, in bocca al lupo, Michele Sergio, buona giornata. Su cosa andare? Siamo quasi in chiusura. Beh, tutta questa storia della scuola. Da settembre metà classe a casa e metà classe in aula, propone Azzolina, poi precisa, dice no, era solamente una proposta. L'idea è che metà studenti vadano per metà settimana in classe divisu e l'altra metà collegati da casa a seguire quello che l'altra metà della classe fa in classe in presenza. Cosicché la socialità resta, il programma va avanti per tutti quanti, l'organico degli insegnanti quest'anno aumenta, ma aumenta per una semplicissima motivazione, perché malgrado i tagli che ci sarebbero potuti essere, qui ci tengo a dirlo, non era scontato che l'organico restasse quello che invece è, ma essendoci una denatalità avremo comunque un po' meno alunni per classe. E come già si diceva prima, anche questa dichiarazione della ministra Azzolina fa discutere, poi è in parte tornata indietro, ha detto solamente una proposta, solamente un'idea, riguarderebbe le classi dei più grandi eventualmente, ma anche su questo c'è qualche perplessità. Anche qua c'è una task force che lavora sulla questione. La task force del Ministero dell'Istruzione sta lavorando a testa bassa. Vedremo cosa ne emergerà. Di certo il dibattito anche sulla riapertura di nidi e materne e riaprirli un po' prima per consentire il ritorno al lavoro delle persone è aperto, non c'è dubbio.